Abbiamo abbassato un pochino i volumi del mixer. Buongiorno a tutti, spero di non far rimbombare troppo. Dunque, cominciamo presto oggi perché il professor Giorgio Galli poi deve è impegnato in una conferenza stampa subito dopo la nostra lezione, quindi dovrà scappare alle 12:15. Come sempre cominciamo con brevissime comunicazioni di servizio. La prima è sulla lezione di settimana prossima, che vi ricordiamo che non è martedì ma è mercoledì, sempre qui alle 10:30, perché il professor Granata non poteva fare lezione il martedì, noi siamo riusciti a avere la sala il mercoledì, quindi la lezione c'è, solamente cambia il giorno, ricordatevelo, non venite qui martedì che non trovate nessuno, e niente. La seconda è che settimana scorsa ci siamo dimenticati di segnalarvi che su questo tavolo abbiamo messo a vostra disposizione una serie di libri che sono fuori commercio, per cui non li trovate, è difficile anche reperirli nelle biblioteche, che però riteniamo siano molto interessanti per approfondire le tematiche di cui ci occupiamo. Sono lì per essere sfogliati, per essere visti. Se vi interessano, ce lo dite, ce lo chiedete, noi vi facciamo una copia, ci pagate semplicemente il costo delle fotocopie, non vi rubiamo nulla, però insomma, se ce lo dite per la settimana successiva facciamo in modo di farvi avere tutto quello che ci richiedete. Questo l'ho detto. Un'altra cosa che vi segnaliamo nel caso ve lo foste dimenticati oppure foste interessati: giovedì, come sempre alle 2:30, c'è la nostra riunione in cui prepariamo anche le prossime iniziative che sono slegate dal laboratorio, quindi se qualcuno di voi è interessato a collaborare con noi, a insomma approfondire un po' di più il progetto di Lapsus, noi saremmo ben contenti di vedervi. Sul nostro sito trovate già i materiali per la lezione di settimana prossima, quindi dovrebbe essere tutto scaricabile. Siccome alcuni di voi mi hanno scritto che ci sono problemi a scaricare i materiali ogni tanto, io ho cercato di sistemare. Se vedete che ci sono ancora problemi, scriveteci e cerchiamo di risolvere tutto quanto. Io spero che questa settimana sia tutto regolare, per cui dovrebbe essere già tutto scaricabile, tutto pronto. Se ci sono problemi fateci sapere. Altra news velocissima: se siete delle matricole, alcuni di voi, oppure se le conoscete, abbiamo pensato quest'anno di aprire una specie di sportello per le matricole che magari alle volte non sanno cosa fare, come gestirsi gli esami, cos'è un piano di studi, come funziona il laboratorio, insomma quelle piccole cose che ognuno all'inizio non sa e che però disorientano l'università. Contestualmente alla nostra riunione del giovedì, se qualcuno ha bisogno di informazioni, di aiuto, di qualsiasi cosa, noi siamo lì. Se qualcuno di voi o conoscete matricole che non ci stanno capendo nulla e che vogliono chiarirsi un po' le idee, proviamo a dargli una mano. Basta, mi sembra che le comunicazioni di servizio siano finite. Cominciamo quindi la lezione di oggi, dove abbiamo la fortuna e l'onore di avere con noi Giorgio Galli, che è uno dei massimi politologi italiani ed è stato per tantissimi anni docente all'università, nella nostra università, l'Università Statale di Milano. Lo ringraziamo moltissimo perché ormai insomma è la seconda o la terza iniziativa che facciamo insieme. Lui è sempre molto molto disponibile, molto gentile a venire alle nostre iniziative, e questa mattina l'abbiamo invitato per approfondire una questione che sembra un po' vaga all'inizio per quanto riguarda la strategia della tensione, ma cercheremo di capire come invece sia di fondamentale importanza per capire il pensiero, le dottrine e il contesto generale in cui si è venuto a determinare quegli avvenimenti. Settimana scorsa, vi ricorderete, una buona parte della lezione di Aldo Giannulli è stata dedicata già in parte a questo argomento, cioè come cambia il concetto di guerra, la forma della guerra, Subito dopo la fine del secondo conflitto mondiale, ha parlato di guerra fredda, di guerra asimmetrica, di guerra psicologica, di guerra culturale. Oggi tenteremo di approfondire proprio questo filone, cioè come la guerra cambia e come nella la strategia della tensione sia stata una vera e propria forma di guerra diversa da quella che abbiamo storicamente conosciuto. In particolare, vi segnalo, poi lascio subito la parola al professore. Un libro che il professore ha curato e scritto l'anno scorso, mi sembra, che si chiama La democrazia e il pensiero militare, che se volete dopo potete vedere qui, e che in parte, diciamo, prende le mosse da questi argomenti, poi si addentra in questioni più legate forse al mondo contemporaneo, ma che è molto utile proprio per capire come le elite militari abbiano un ruolo fondamentale nella società contemporanea e ovviamente anche nella società di quel tempo. Tra l'altro vi segnalo, adesso facciamo un piccolo spot pubblicitario, che noi l'anno scorso abbiamo presentato questo libro in università, per cui se volete andare a rivedere che cosa abbiamo detto, che cosa abbiamo parlato, di che cosa abbiamo parlato in quell'iniziativa, sempre sul nostro sito trovate l'audio e i materiali che avevamo prodotto quella volta. E quindi è un ottimo strumento se vorrete approfondire la lezione di oggi, che comunque penso sarà esauriente, dato che il professore è sempre molto interessante da seguire. Io lascio subito la parola a lui, lo ringrazio di nuovo. Ovviamente, come sempre, vi ricordo che la prima ora lasciamo intervenire il professore, la seconda cerchiamo il più possibile di dialogare, di interagire tra voi e lui. Grazie a tutti e buona lezione. Bene, grazie a voi per l'invito e mi congratulo molto per questa iniziativa perché nella mia lunga esperienza, adesso ho lasciato l'Università di Milano dove ho insegnato molto a lungo, mi hanno fatto una proposta come professore a contratto al campus di Savona dell'Università di Genova, lo faccio da 3 anni e devo constatare che la conoscenza della storia contemporanea è molto poco diffusa. È una lacuna da colmare e iniziative come la vostra sono molto da apprezzare appunto perché orientate a colmare questa lacuna. In particolare mi pare che il vostro interesse si concentra sugli anni 70 dello scorso secolo. Il mio tema è la guerra e nell'ambito della guerra fredda. Io vi voglio proporre un'interpretazione che sono venuto maturando negli ultimi anni e che non è molto diffusa. Ci sono molte storie della guerra fredda e queste storie sono basate sul problema centrale della contrapposizione tra il mondo libero e il comunismo. Io ho l'impressione, e sto cercando di capire meglio questa questione, che forse il problema della guerra fredda e in particolare degli aspetti combattuti della guerra fredda, dalle guerre d'Asia sino al Sud America, a Cuba e all'Algeria, sia un problema da vedere in un'ottica relativamente nuova. Il problema principale non è stata la contrapposizione tra mondo libero e mondo comunista, ma il fatto che l'Occidente ha dovuto fronteggiare una rivoluzione anticolonialista che ha visto in certe situazioni i partiti comunisti e l'Unione Sovietica appoggiare le rivoluzioni anticolonialiste, che in parte avevano per protagonisti, come in Cina, un partito comunista all'origine molto debole, e in altri casi, nel Medio Oriente e in Africa, o nella stessa America Latina, vedevano il partito comunista svolgere un ruolo assolutamente secondario rispetto a manifestazioni teoriche, politiche e di combattimento di un anticolonialismo che aveva radici locali. Questo è un punto di vista relativamente nuovo, perché quando si parla di guerra e dei vari tipi di guerra, appunto adesso ricordava la guerra rivoluzionaria, la guerra asimmetrica, ci si riferisce a fenomeni abbastanza diversi, perché da un lato le guerre combattute sono che sono state effettivamente combattute erano guerre anticoloniali condotte prevalentemente in forma di guerriglia. Invece c'era una forma di competizione, forse un'anticipazione della guerra asimmetrica, cioè con vari strumenti che non erano solo militari, tra il blocco occidentale guidato dagli Stati Uniti e l'Unione Sovietica con i paesi satelliti. E è questo tipo di guerra asimmetrica che si è chiusa nell'89 con la vittoria dello schieramento occidentale. Ed è stata una guerra combattuta in termini nei quali l'apparato militare era certamente importante, ma sostanzialmente tra i due blocchi non è mai stato utilizzato. Avevamo da un lato l'apparato atomico, in realtà questo apparato durante la guerra fredda non è mai stato utilizzato. Il solo uso militare della bomba atomica si è avuto alla fine della seconda guerra mondiale nel 1945 con le note due bombe atomiche sganciate dagli Stati Uniti a Hiroshima e a Nagasaki. Dopodiché l'arma atomica dei due schieramenti, perché poi anche l'Unione Sovietica alla fine degli anni 40 è entrata in possesso di armi termonucleari, aveva un valore deterrente, serviva a tenere condizionato la controparte senza la necessità di usarla realmente. Ci furono due momenti nei quali in Occidente ci fu il tentativo o la proposta di alcuni per usare l'arma atomica. La prima volta fu nel dicembre del 1950 al confine cino-coreano, quando l'esercito degli Stati Uniti, guidato dal generale MacArthur, che riteneva di aver vinto la guerra entro Natale, si trovò di fronte all'intervento cinese. E a questo punto, detto di volontari, ma in realtà era la vecchia armata popolare che già aveva vinto la rivoluzione del 49, costrinse gli americani a ritirarsi e il generale MacArthur ebbe la vaga tentazione di usare atomiche tattiche. E il presidente Truman si oppose decisamente. Secondo la seconda ipotesi o vaga possibilità di questo genere avvenne sempre nel contesto asiatico delle guerre combattute nel 1954 in Indocina, quando i francesi, sconfitti a Dien Bien Phu dall'esercito popolare del Vietcong nel Sud Vietnam, aiutati dall'esercito popolare del Nord Vietnam, sconfitti a Dien Bien Phu e sul punto di dover rassegnarsi ad abbandonare l'Indocina, furono poi sostituiti dal Vietnam dagli Stati Uniti. Lo Stato Maggiore francese ebbe la tentazione ancora una volta di usare atomiche tattiche e gli americani intervennero decisamente, il capo di Stato Maggiore, il generale Rentoul, si oppose decisamente, quindi di fatto l'arma nucleare era un deterrente che serviva a garantire la posizione di forza dei due blocchi senza essere usato. Che tipo di guerra invece venne effettivamente combattuta? Quella che venne teorizzata per primi dal Partito Comunista Cinese, una guerra popolare rivoluzionaria che aveva forti caratteristiche di guerra di guerriglia. La guerriglia aveva forti precedenti nella storia già dell'Occidente. In fondo la stessa guerra di indipendenza americana era stata una guerra con molte caratteristiche di guerra di guerriglia, condotta sotto la guida di Washington, che poi fu il presidente degli Stati Uniti, contro le truppe inglesi, che in gran parte erano mercenari tedeschi, tra l'altro. Un altro esempio notevole di guerra di guerriglia fu quella condotta in Spagna, in questo caso col sostegno inglese del generale Wellington, durante l'occupazione francese. Giuseppe fratello di Napoleone era in Spagna. Alcune caratteristiche dello stesso risorgimento italiano sono abbastanza vicine alla guerra di guerriglia. La stessa iniziativa di Garibaldi nella fase siciliana ebbe molte di queste caratteristiche, la sproporzione di forze era evidente, fu compensata da una serie di fattori che conoscete, il vero scontro frontale ci fu al Volturno alla fine della campagna. Bene, queste esperienze di guerra di guerriglia, variamente presenti nella storia dell'Occidente, vennero teorizzate in modo molto sistematico durante il secondo conflitto mondiale. Da un lato, l'esperienza europea più importante fu la guerriglia jugoslava organizzata dal maresciallo Tito e dal Partito Comunista Jugoslavo, e l'esperienza cinese organizzata dal Partito Comunista Cinese e da Mao Zedong. Adesso dice Mao Zedong, ma io sono abituato a usare la terminologia di allora nella decifrazione degli organigrammi. Quindi effettivamente gli episodi di questa guerra di guerriglia furono di iniziativa comunista. Tra l'altro, e questo è abbastanza singolare, due iniziative che portarono al potere i comunisti in Europa, in Jugoslavia e in Asia, in Cina, per iniziativa del partito comunista locale che venne meno alle indicazioni di Stalin. Stalin aveva suggerito a Tito un accordo con Re Pietro, aveva suggerito a Mao Zedong un accordo con Chiang Kai-shek, e in realtà questi partiti comunisti autonomamente trasformarono una guerra che era detta di liberazione nazionale contro gli invasori tedeschi in Jugoslavia, contro gli invasori giapponesi in Cina, in una guerra per la conquista del potere secondo la concezione marxista seguita da questi partiti, che ritenevano che il passaggio dal sistema capitalista al sistema socialista passasse necessariamente attraverso una fase di lotta armata, il cui esempio principale era stata la rivoluzione russa del 1917. Furono queste esperienze e lo svolgimento successivo a far pensare, nell'ambito della guerra fredda, che l'Occidente dovesse confrontare una tendenza comunista all'espansione basata soprattutto su questo tipo di guerra rivoluzionaria. Io credo che anche su questo punto bisogna correggere un'interpretazione diffusa. Io concordo con quella corrente storiografica che ritiene che l'Unione Sovietica non ebbe mai come strategia di politica estera una espansione nell'Europa occidentale basata su iniziative militari. Semmai si può dire che in questo caso, e anticipando il termine di guerra asimmetrica, fu condotta una competizione asimmetrica dove i protagonisti di questa guerra in Occidente era dove c'erano i partiti comunisti, che avevano un forte legame con l'Unione Sovietica, il Partito Comunista Italiano, il Partito Comunista Francese. Nel resto dell'Europa i partiti comunisti avevano scarsissimo peso, che certamente si avvalevano del prestigio, degli aiuti materiali in termini di finanziamenti dell'Unione Sovietica, ma che conducevano, se vogliamo considerarla tale, una competizione asimmetrica, cioè basata sulla propaganda, sulla psicologia, sulle competizioni elettorali. Devo dire che uso questo termine spostandone la connotazione cronologica. Possiamo definire così un tipo di competizione dopo che, appunto, credo che l'abbia ricordato Giannulli, che furono due ufficiali cinesi, a suo tempo colonnelli, forse oggi generali, che scrissero appunto nel 99 questo testo sulla guerra asimmetrica, intendendosi cioè una guerra che comprendeva l'uso di strumenti militari, ma anche l'uso di altri strumenti, dall'economia alla propaganda, alla psicologia di massa. Quindi io credo che l'influenza della guerra fredda in questi termini sulla situazione italiana degli anni 70, questa è una premessa per arrivare lì e cercare di capire bene che la situazione che si determina in Italia in quegli anni ha la premessa in una situazione nella quale si pensava in Occidente, da parte dei partiti moderati e non comunisti, di dover condurre una guerra contro il comunismo, perché si basava soprattutto sull'esperienza europea, dove da un lato c'era l'Unione Sovietica con gli stati satelliti e dall'altro, che poi avevano stipulato un patto militare, il patto di Varsavia, e dall'altra parte i paesi occidentali retti a democrazia rappresentativa alleati agli Stati Uniti, che già nel 1949 avevano saldato tra loro un'alleanza militare, il Patto Atlantico, di cui la NATO è lo strumento organizzativo. L'Atlantic Organization. I testi che adesso avete, vi hanno dato, li hanno lì, li hanno letti, sono due momenti tipici di questa situazione. Un primo convegno in Italia nel 1961 e un secondo convegno pur in Italia nel 1965, che vanno collocati in un contesto nel quale la guerra guerreggiata era in una fase particolare. Vediamo, il primo convegno avviene in un momento che ha sullo sfondo i grandi successi spaziali dell'Unione Sovietica, che non vanno trascurati. L'Unione Sovietica mise in orbita nel 1957 il primo satellite artificiale, lo Sputnik, e nell'aprile 61 lanciò, collocò il primo uomo nello spazio. Sembrava la prova di una superiorità tecnologica che era uno strumento importante di questa, se vogliamo chiamarla, guerra asimmetrica, ed era stato sullo sfondo anche della campagna elettorale che portò Kennedy alla presidenza degli Stati Uniti nel 1960, nel contesto però di due situazioni di guerra di guerriglia in quegli anni molto importanti. Teniamo presente che già alla fine degli anni 50 la Francia, ricordate Dien Bien Phu, era stata sconfitta, era stata costretta ad abbandonare l'Indocina. Nel 58 le difficoltà della guerra d'Algeria avevano portato al potere il generale De Gaulle, e era molto difficile per i francesi vincere, sconfiggere sul campo la guerriglia algerina, anche se ottennero importanti risultati, parare il generale Massu, la battaglia di Algeri, un celebre film italiano di Gino Pontecorvo, molto bello, ma nel 1959, dopo l'ha vinto il potere di De Gaulle, la Francia era in difficoltà in Algeria, e nello stesso anno un movimento guerrigliero guidato da Fidel Castro e da Che Guevara prendeva il potere a Cuba. In entrambe le situazioni, inizialmente, i comunisti o non avevano nessun ruolo, come in Algeria, o avevano un ruolo molto marginale. I movimenti che conducevano la guerra di guerriglia non erano comunisti. Il movimento guerrigliero guidato da Castro si chiamava Movimento del 26 luglio, che era la data di un primo fallito tentativo di spedizione armata a Cuba. E in Algeria il Fronte Nazionale di Liberazione era una organizzazione nazionalista con diverse componenti, alcune più moderate, altre più radicali, e la presenza comunista era assolutamente insignificante. Nel quadro di una visione che in Occidente vedeva la competizione come una competizione tra mondo libero e mondo comunista guidato dall'Unione Sovietica, queste situazioni, così come altre parallele di questo contesto, come la decolonizzazione in Congo nel 1960 e le guerriglie contro i portoghesi che erano cominciate in Angola e in Mozambico in questi stessi anni, con movimenti a scarsissima partecipazione del comunismo locale, così come ancora prima la guerriglia in Kenya, che aveva portato all'indipendenza del paese sotto la guida di un movimento guerrigliero, detto dei Mau Mau, soprattutto delle tribù Kikuyu, che era un movimento locale, cioè tutte situazioni nelle quali il comunismo non c'entrava, come ho detto all'inizio, erano guerre di indipendenza e di decolonizzazione che certamente usufruivano del sostegno, in qualche caso mai spinto troppo in là per evitare tensioni troppo forti con l'Occidente, dell'Unione Sovietica, ma ripeto, la competizione principale in questi casi non era con i comunisti. Pur tuttavia gli Stati Uniti vivevano questa competizione come una competizione globale con l'Unione Sovietica e il mondo comunista, e come dicevo prima Kennedy condusse la sua campagna elettorale del 60, che vinse di stretta misura, proprio sostenendo che l'amministrazione repubblicana, pure guidata, il presidente era un generale, il generale Eisenhower, che era stato il comandante delle forze alleate in Europa durante la guerra antihitleriana, cioè che questa amministrazione non era sufficientemente competitiva nei confronti dell'Unione Sovietica e della guerra rivoluzionaria che i comunisti combattevano. E diceva che se io guardo appena al di là del nostro mare, dalla Florida, vedo la bandiera rossa a Cuba, e se alzo lo sguardo al cielo, vedo la bandiera rossa nello spazio. E i repubblicani non hanno fatto niente per evitare queste situazioni. La nostra amministrazione sarà all'altezza di questa sfida. In realtà venivano messe a confronto due situazioni abbastanza diverse. Da un lato l'effluato tecnologico condotto dall'Unione Sovietica nell'esplorazione dello spazio, al prezzo di massicci investimenti che gravavano molto sul livello di vita della popolazione. Per mandare un uomo nello spazio si investivano risorse che impedivano un graduale miglioramento del livello di vita, come quei periodi a venire in Occidente. E a Cuba aveva vinto un movimento guerrigliero inizialmente non comunista. In una certa fase i comunisti erano stati addirittura al governo col sergente Fulgencio Batista, cioè il dittatore che la guerriglia di Castro e di Che Guevara aveva rovesciato, che poi si avvicinarono gradualmente al Partito Comunista, tanto che il movimento del 26 luglio si fuse poi e il partito assunse la denominazione di Partito Comunista, soprattutto in conseguenza dell'ostilità che aveva trovato negli Stati Uniti, che non si rassegnavano a quella che era l'inizio di una guerra di indipendenza. Cuba era una dipendenza degli Stati Uniti, dove i miliardari americani, talvolta accompagnati da Frank Sinatra per rallegrare le serate, andavano a trascorrere i weekend nei casinò. Era una colonia americana di fatto. Il movimento del 26 luglio era sostanzialmente un movimento anticoloniale, così come era anticolonialista di tutta evidenza il movimento algerino. I francesi però, per essere aiutati da tutto l'Occidente in questa competizione che stavano perdendo e che tentarono di trasformare anche in una guerra più diffusa, con una spedizione in Egitto dove aveva pure vinto una rivoluzione anticolonialista. L'Egitto era sostanzialmente un protettorato inglese. La situazione in Medio Oriente era complicata dalla creazione dello Stato di Israele, ma non voglio entrare in questa questione, che pure rientra in generale negli equilibri dove fenomeni di guerra ci furono, perché anche in Medio Oriente ci furono quattro guerre guerreggiate: nel 48 l'inizio dello Stato di Israele, nel 56 appunto in concomitanza con la spedizione anglo-francese contro Nasser, e poi ancora nel 73, poi se vogliamo vedere ancora un paio d'anni fa ai confini libanesi. Ma della questione dello Stato di Israele non voglio parlare, teniamola solo sullo sfondo, perché negli anni 70 l'equilibrio nel Medio Oriente, come vedremo, attraversava una fase delicata nella quale si collocava la situazione anche nel Mediterraneo. Dunque, dicevo, i francesi presentarono la guerra di Algeria non come una guerra anticoloniale, ma come una guerra di difesa dell'Occidente contro il comunismo, anche se in realtà comunisti in Algeria non ce n'erano, e combattevano una guerra contro un movimento di indipendenza, tra l'altro abbastanza anche diviso nel suo interno, come poi si vide. Però stiamo sempre vedendo l'inizio degli anni 60, quello al quale la situazione alla quale si riferisce il primo dei due convegni fatti in Italia. Quindi una situazione nella quale due competizioni diverse, secondo me. La guerra fredda tra l'Occidente e l'Unione Sovietica, che non era una guerra guerreggiata, e la rivoluzione anticolonialista in forma di lotta armata tra l'Occidente e una serie di movimenti, alcuni dei quali comunisti come in Cina e quasi ovunque altrove, in Cina e poi in Vietnam, ma anche il Partito Comunista Vietnamese ha caratteristiche del tutto particolari, ancora più particolari il Partito Comunista della Cambogia, quello di Pol Pot, del quale si è poi parlato moltissimo quando ero a Milano, nella vostra università, sono stato anche relatore di un paio di tesi abbastanza interessanti sulle origini di questi intellettuali come Pol Pot che avevano studiato in Francia e che poi si inventarono un tipo di comunismo cambogiano che portò ai massacri che ben conosciamo. Quindi il primo convegno si colloca in questo contesto, in una situazione nella quale una serie di eventi, dei successi spaziali sovietici, alle guerriglie anticomuniste, ai successi elettorali dei partiti comunisti in Italia e in Francia, sono i paesi d'Europa dove erano importanti, aveva creato nell'establishment occidentale l'idea di un comunismo in costante espansione che sfidava l'Occidente in tutti gli ambiti, dallo spazio a Roma e all'Asia. Io ripeto, il contesto invece secondo me era diverso, adesso siamo a 50 anni di distanza da quegli eventi, credo che quando si ricostruirà la storia del XX secolo anche la Guerra Fredda sarà vista in un'altra chiave interpretativa, a parte quella che ho suggerito oggi. Però allora la visione era diversa, allora in questo primo convegno vede una rappresentanza per lo più, se leggete i nomi dei relatori, Malagò, Di Gonella, quello che in Italia era lo schieramento centrista visto come lo schieramento antagonista alla sinistra, perché almeno fino al 56 e all'Ungheria il Partito Socialista era strettamente alleato, aveva un patto di unità d'azione con il Partito Comunista e quindi c'erano i partiti democratici, il Mondo Libero, l'Occidente, e dall'altro i socialcomunisti legati all'Unione Sovietica. Quel convegno venne organizzato in questa chiave. Il secondo convegno ha invece una caratteristica diversa perché nel frattempo la nuova amministrazione americana, l'amministrazione Kennedy, aveva in parte corretto, sempre sulla base di sfidare in modo più efficace il comunismo, come aveva detto Kennedy, se basta bandiere rosse nello spazio, basta bandiere rosse a Cuba, quale può essere l'alternativa? Invece di sostenere quasi esclusivamente forze conservatrici, purché anticomuniste, in qualche caso anche forze abbastanza reazionarie, è la politica che Kennedy definì della nuova frontiera, era una politica volta a combattere il comunismo, incoraggiando in tutte le aree possibili movimenti riformisti e nazionalisti. Era una correzione di rotta che per lo più rimase sulla carta, però in Italia riuscì. Perché per esempio in Italia l'amministrazione Kennedy fu decisiva per spostare i socialisti che già si erano autonomizzati con i fatti di Ungheria, con il 56, che forse conoscete, sui quali non mi soffermo se mai mi farete qualche domanda, che già erano usciti dall'area di influenza comunista, si orientarono verso un nuovo schieramento politico in Italia attraverso l'alleanza con la Democrazia Cristiana e fu il centrosinistra italiano. Il Partito Comunista sarebbe poi rimasto all'opposizione, i socialisti sarebbero andati al governo. Ed è importante rilevare, per avere un quadro di degli anni 70 e del ruolo dei servizi segreti negli anni 70, ricordare che in questa fase, per impulso del comandante dei carabinieri e poi responsabile dei servizi militari del SIFA, il generale Di Lorenzo, i servizi si schierano a favore del centro-sinistra, non contro. E per la ragione che ho detto prima, perché a questo punto anche l'amministrazione Kennedy, superando anche resistenze di certi settori del Dipartimento di Stato, tentava di applicare anche in Italia questo schema della nuova frontiera, non per combattere il comunismo, appoggiare solo forze conservatrici e reazionarie, ma appoggiare anche forze anticomuniste o comunque non comuniste, però su posizioni innovatrici e riformatrici. Quindi a questo punto il centro-sinistra in Italia, diversamente da un'immagine molto diffusa, fu inizialmente accettato dalla CIA e sostenuto dai servizi segreti italiani. Però, e questo è un punto delicato che spiega cosa avviene nel secondo convegno del quale troverete dei relatori di un tipo un po' diverso, perché nel frattempo l'esperienza di centrosinistra non diede quei risultati riformisti che avrebbe potuto dare, certamente produsse dei risultati. fu nazionalizzata l'industria elettrica, venne introdotta la scuola media unica, vennero avviate le condizioni per realizzare gli istituti regionali che erano previsti già da... le regioni avrebbero dovuto essere costituite entro un anno dall'entrata in vigore della Costituzione. La Costituzione italiana entrò in vigore il 1 gennaio 48, credo lo sappiate, e le regioni avrebbero dovuto essere costituite nel 49. Chiaramente il ministro degli interni di un cristiano Scelva disse che non si poteva permettere che metà Italia, l'Emilia Romagna, la Toscana, l'Umbria, da Piacenza alle porte di Milano sino a Terni alle porte di Roma, fosse governata dai comunisti filosofici, e quindi le regioni non si fecero. Col centro-sinistra, appunto, tra le altre riforme avviate fu quella dell'avvio delle regioni in statuto ordinario, che poi vennero costituite negli anni 60, e le prime elezioni ci furono appunto negli anni 70. Ma nonostante questi risultati, il centro-sinistra mancò di realizzare le riforme più importanti, quelle che poi gravano anche oggi sulla società italiana, dei fortissimi squilibri tributari con un'evasione fiscale dilagante, a una politica del territorio che provoca quasi sistematicamente terremoti previsti ma senza casi antisismiche come in Abruzzo, o le recenti vicende dei nubifragi ricorrenti. Quindi il centro-sinistra ottenne qualche risultato, ma non erano risultati tali da ridurre l'influenza comunista, anzi in quegli anni il Partito Comunista continuò a guadagnare terreno elettoralmente, non grandi successi elettorali, ma comunque non venne messo in difficoltà. E questo in un contesto nel quale, come ho detto, tutta la situazione nell'area mediterranea tendeva a modificarsi, e fu un aspetto molto importante proprio legato al concetto di guerra rivoluzionaria, fu quello che nel frattempo stava accadendo a livello, diciamo pure, mondiale. Nel Mediterraneo la rivoluzione algerina vince, i francesi devono abbandonare l'Algeria dopo una dura resistenza. A un certo punto il potere gollista reprime i coloni ribelli, i pieds noirs devono lasciare in massa l'Algeria, si spostano in Francia, soprattutto nella Francia meridionale, e saranno poi la base di massa nel decennio successivo del movimento di Le Pen, tuttora adesso in parte assorbito da Sarkozy, ma che è stato a lungo molto forte, con punte del 20-25% dei voti nell'area attorno a Marsiglia. Questo non era un successo comunista, ma allora apparve tale perché tutta l'area mediterranea era in movimento, e qui si colloca perché contemporaneamente a questa situazione si sviluppa la situazione in Medio Oriente, che indipendentemente dal problema di Israele vedeva all'opera una serie di movimenti nazionalisti. Nel 1951 una rivoluzione di militari, di ufficiali nazionalisti, rovescia il regime filo inglese di Re Farouk. Vi erano due componenti, un'ala più moderata del generale Naguib e l'ala più avanzata e più radicale, che per esempio voleva una riforma agraria, del colonnello Nasser. Nel 1956 l'ala radicale vince in Egitto, Naguib viene esiliato e Nasser sviluppa in modo molto radicale un nazionalismo egiziano fortemente antioccidentale, e poi cercherà di nazionalizzare il canale di Suez, che aveva una maggioranza azionaria franco-inglese. Contemporaneamente nel 1900, poi Nasser creerà, durerà poco, la Repubblica Araba Unita, unendosi alla Siria, dove un movimento di giovani ufficiali del Ba'ath aveva preso il potere contro la vecchia classe dirigente, la Siria, un trattato francese legata alla Francia. Contemporaneamente, in quello che era formalmente uno stato indipendente, ma di fatto un protettorato inglese, l'Iraq, dove già c'era stata una ribellione nel 1941, ufficiali nazionalisti si erano ribellati agli inglesi nel 1941, quando Rommel stava marciando verso Alessandria, nella speranza di unire un'insurrezione nazionalista irachena all'avanzata dell'armata italo-tedesca di Rommel in Egitto. Gli inglesi avevano schiacciato questa rivolta, rimaneva vivo un fermento tra ufficiali nazionalisti. Nel 1958 gli eredi della ribellione del 41 riprendono il potere, uccidono il re e il suo primo ministro Nuri Es-Said e inizialmente instaurano, sono per lo più ufficiali nazionalisti che in questo caso hanno l'appoggio del peraltro debole partito comunista iracheno. Ma i due partiti più forti, tanto in Siria che in Iraq, non erano partiti comunisti, erano partiti del Baath, l'ultimo Baath è quello del quale avete sentito parlare durante l'ultima invasione contro Saddam Hussein, il Baath, partito socialista della rinascita araba, quindi non erano comunisti. In Cina e in Siria il comunismo era praticamente inesistente, era invece presente un debole partito comunista iracheno. Comunque noi abbiamo questo contesto, ripeto, nei primi anni 60, nei quali prendono il potere movimenti arabi nazionalisti in Algeria, in Egitto, in Siria, in Iraq. Se questi movimenti vengono sostenuti dall'Unione Sovietica, anche qui per un tipo di politica nella quale l'Occidente, la Francia e l'Inghilterra, gli Stati Uniti erano anticolonialisti, sì, e quindi criticavano in parte il colonialismo franco-inglese, ma tendevano ad accettare in qualche misura l'indipendenza di questi paesi, purché rientranti sotto la prevalente influenza degli Stati Uniti. E quindi si crea in tutta quest'area, stiamo parlando, come avete visto, della metà degli anni 60, una situazione di forte tensione, mentre intanto una situazione dello stesso tipo si sviluppa in Asia, anche lì per la presenza di movimenti per lo più nazionalisti. Certo, in Vietnam con una forte presenza comunista anche per l'influenza cinese, anche se poi ci sarà un conflitto tra i due, nell'ambito di Cina, Vietnam, Cambogia. Ma per esempio in Indonesia vince un partito nazionalista, Sukarno, che addirittura aveva iniziato la sua carriera politica come alleato dei giapponesi, la sfera di prosperità della grande Asia orientale, quindi erano movimenti nazionalisti, anche se invece in Indonesia si stava organizzando un partito comunista che però era schiacciato dalla repressione di Suharto pochi anni dopo. E soprattutto c'era il problema del Vietnam, dove c'era effettivamente un partito comunista e dove gli Stati Uniti pensarono di sostituirsi alla Francia per contenere quella che temevano un'espansione comunista addirittura proiettata verso l'Australia. E qui gioca molto una situazione che appunto ho descritto nel libro che veniva citato prima, era un vecchio libro che avevo scritto nel 1961 e che aveva per titolo I colonnelli della guerra rivoluzionaria. Cioè in questa situazione nella quale sembrava che in tutta questa vastissima area che andava dall'Algeria all'Indonesia una lotta armata toglieva posizioni all'Occidente ed è sulla base appunto di questo tipo di guerra ed era vista come un'iniziativa prevalentemente comunista, anche se fuori dall'esempio cinese e parzialmente vietnamita non lo era, soprattutto gli ufficiali francesi che avevano combattuto prima in Indocina e poi in Algeria pensarono che contro questo tipo di guerra rivoluzionaria bisognava contrapporre una guerra altrettanto rivoluzionaria basato, questo è abbastanza interessante, quale doveva essere la differenza? Non soltanto una guerra armata, ma poiché la guerriglia si basava sulla creazione di un consenso, la controguerriglia occidentale doveva costruire a sua volta un consenso, cioè tentare di convincere gli abitanti di queste aree che la migliore soluzione dei loro problemi non era un nazionalismo autoctono, ma una sorta di alleanza con l'Occidente in chiave anticomunista. Allora scrissi questo, e questa idea, elaborata dagli ufficiali francesi con l'esperienza dell'Indocina e dell'Algeria, in Algeria fecero un colpo di Stato tentando di creare dei comitati di salute pubblica franco-algerini, mettendo insieme gli ufficiali paracadutisti che conducevano la guerriglia e che ad Algeri ne aveva 90, addirittura con rappresentanti delle comunità arabe e berbere. Questa idea, nata tra gli ufficiali francesi esperti di guerre coloniali, prese molto piede negli Stati Uniti e nelle accademie militari americane, che si trovavano di fronte a fenomeni dello stesso tempo che si delineavano in tutta l'America Latina, considerata un'area di tipica influenza nordamericana, sì, dei tempi della dottrina di Moore del 1821. Qui, anche qui, vi erano movimenti nazionalisti abbastanza vicini al modello cubano e qua e là con presenze comuniste. Ora, a metà degli anni 60, mentre si sviluppava questa situazione in un'area che andava, ripeto, dall'Algeria all'Indonesia, anche in America Latina, sull'esempio cubano, si sviluppano movimenti di guerriglia, ai quali si ispireranno molto, qui anticipo, quelle che saranno poi le BR italiane. Il loro idolo era Merighella, che era un organizzatore della guerriglia in Brasile. Quindi i militari americani pensano che dovranno fronteggiare movimenti nazional comunisti, nazional guerriglieri, forse in tutta l'America Latina, e che bisogna fronteggiarli in parte con lo strumento della repressione, cioè essere in grado di condurre una guerra antiguerriglia efficace, e infatti lo faranno, e Che Guevara cadrà in combattimento in Bolivia nella fase discendente di una guerriglia che verrà sconfitta, ma nello stesso tempo tentando di acquisire consenso. È una storia lunga, adesso la metto da parte, la ricordo solo per dire che è in questo contesto che nasce in Italia il convegno del 65, che vede da un lato l'insuccesso di un riformismo senza il PC in Italia, insuccesso del centro-sinistra, e dall'altro l'Italia come una zona che per questa forte influenza comunista è in un momento nel quale il comunismo sembra vincente a livello mondiale, appunto in queste aree, si crea una situazione per la quale, accantonato il centrismo conservatore insufficiente, convegno del 61, e constatato l'insuccesso in termini di riduzione dell'influenza del PC, che non ci fu, del centro-sinistra, nel 65 anche in Italia, il convegno organizzato a Roma, all'Hotel Parco dei Principi, dall'associazione che prende nome da Poglio, il generale, il capo di Stato Maggiore italiano del 1900, Alberto Poglio, del 1914, che muore immediatamente prima dello scoppio della Prima Guerra Mondiale e verrà sostituito come capo di Stato Maggiore del generale Cadorna, molto più noto di lui, e che farà tutte le nuove offensive sempre su Bisonzo. Allora, questo istituto, con forti connotazioni destre, troverete lì tra i relatori, avevo suggerito di copiare alcune delle relazioni abbastanza indicative per parlare del nuovo clima culturale che si è creato. Troviamo da un lato le relazioni che hai suggerito, personalità anche molto diverse. Vi è Pino Rauti, che rappresenta l'ala più radicale della destra italiana, poi diventerà segretario del MIS molto dopo, allora era legato soprattutto a questa sua organizzazione, all'Ordine Nuovo, però anche per esempio una persona con la quale ho anche collaborato sul piano puramente culturale, come Renato Mieli, che era stato il direttore, il redattore capo di Rinascita, direttore Togliatti, uno degli allievi del togliattismo italiano, che poi aveva rotto col partito nel 1956. Quindi due accostamenti molto singolari, Pino Rauti da un lato, Renato Mieli dall'altro, e poi Guido Giannettini, che era un intellettuale di destra molto legato ai servizi segreti. E io avevo suggerito di, come anche Beltrametti, che è uno dei relatori, avevo suggerito di tradurre, di farvi avere queste relazioni, perché segnano il passaggio dal convegno centrista del 61 alla situazione post centro-sinistra del 65 alla vigilia del 68, dove in Italia si comincia a teorizzare sulla scorta dei colonnelli francesi di Indocina e di Algeria e delle accademie militari americane, si comincia a teorizzare che è in corso a livello mondiale una guerra rivoluzionaria. I nazionalisti la definiscono come una guerra popolare rivoluzionaria, invece in Occidente il termine popolare viene accantonato dall'espressione più semplice guerra rivoluzionaria, e che bisogna inquadrare in questo contesto quello che può accadere in Italia se si verificasse una continua espansione della sinistra. In realtà l'espansione della sinistra si ha poi a partire dal 68, in un contesto del tutto diverso, dove il comunismo c'entra poco e la guerra rivoluzionaria assolutamente nulla. Adesso vediamo che ore sono, che... Le 11:20. 11:20. Allora, volevo vedere... Quindi, anche qui, quello che avviene in Italia è in parte un fenomeno italiano di un fenomeno mondiale. La contestazione che prende nome dal 68. In realtà, questo fenomeno è iniziato proprio negli Stati Uniti come una forma di controcultura che vedeva convergere tre posizioni. Da un lato il movimento nero per i diritti civili, Martin Luther King, allora, che poi avrebbe avuto enormi successi, adesso abbiamo un abbronzato alla Casa Bianca, però era allora il primo movimento che si stava delineando. Un secondo movimento delle tradizioni pacifiste americane, in parte di derivazione anche moderata e isolazionista, contro l'avvio della guerra del Vietnam, che era cominciato appunto nel 64 con gli incidenti nel Golfo del Tocchino. E la terza componente era una ribellione studentesca contro contro il potere accademico americano, che era ritenuto troppo rigido. Era un po' una derivazione dei movimenti hippie, aveva un'origine molto culturale, la musica, la cultura delle droghe leggere. Quindi c'erano tre componenti negli Stati Uniti che iniziano questo movimento, che poi arriva con caratteristiche diverse in Europa. Arriva in Francia, che assume la forma di un movimento di protesta inizialmente studentesco e poi anche operaio contro la fase di stabilizzazione del regime gollista, che era un regime certamente liberal-democratico, ma con alcune connotazioni che potevano sembrare autoritarie. Poi ha un forte sviluppo in Germania, per tante ragioni legate anche alla divisione del paese, e il movimento tedesco di Ludwig, che è abbastanza forte. Quindi, per un verso, abbiamo in Occidente un movimento culturale nel quale la presenza comunista è del tutto inesistente, come negli Stati Uniti o in Germania, ed è inizialmente una presenza che osteggia le punte più radicali e combattive di questo movimento, sia in Francia che in Italia, dove i partiti comunisti sono forti. Però nell'insieme questa situazione, che è a livello generale, provoca soprattutto in Italia un forte spostamento a sinistra. Forte spostamento a sinistra per varie ragioni, una delle quali è proprio l'arretratezza culturale italiana, che si trasforma quasi come contrappasso a questa arretratezza in un movimento più forte e di più lunga durata che altrove. L'esempio tipico è la presenza del Vaticano in Italia, un potere ininterrotto della Democrazia Cristiana, quello che un mio vecchio libro avevo definito il bipartitismo imperfetto. La DC sempre al governo, nell'ultima fase accanto ai socialisti, ma in posizione subordinata, e il più forte partito dopo la DC sempre all'opposizione. Quindi la massiccia presenza della Chiesa, della DC, e questo movimento che inizia con una posizione culturale di derivazione anche molto anglosassone. Il primo 68 ha forte connotazioni la musica, le droghe leggere, il movimento hippie, ha poco di comunista e anzi viene considerato un movimento negativo e piccolo borghese dal Partito Comunista, però ha un notevole sviluppo dura nel tempo. Per esempio Pasolini, sto adesso curando un lavoro proprio su Pasolini. Pasolini lo considerava già sconfitto nel 69, cioè la sconfitta del movimento studentesco, scrive. No, era semplicemente una fase di passaggio nella quale il movimento da movimento studentesco diventa un movimento che comincia a creare un principio di radicamento sociale, anche costruendo dei piccoli partiti, anche a livello di una classe operaia, perché appunto molto priva di potere sindacale. Negli anni 60 i sindacati in Italia erano più deboli dei sindacati francesi, più deboli dei sindacati inglesi, più deboli anche dei sindacati tedeschi, cioè di paesi come per esempio l'Inghilterra e la Germania, dove i partiti comunisti non c'erano. Quindi da un lato abbiamo una arretratezza culturale caratterizzata dalla forte presenza della Chiesa Cattolica. Per fare un esempio, in tutto l'Occidente il divorzio c'era da tempo. In Italia parve una battaglia di grande avanguardia, quello che in tutta Europa c'era da tempo. E un altro tipo di arretratezza era il fatto che, identificando il movimento sindacale con la presenza comunista, che in questo caso in Italia era molto forte, e il partito comunista fu certamente il nervo del sindacalismo italiano per l'antica eredità socialista, si tradusse nella costruzione di sindacati concorrenti, la CISL e l'UIL, e soprattutto in una politica all'interno delle fabbriche dove le libertà elementari che nelle fabbriche inglesi, francesi e anche tedesche c'erano, in Italia nelle fabbriche queste libertà non c'erano. E allora nei due casi l'arretratezza complessiva, il Vaticano e la politica di duro controllo aziendale, si trasforma in una carica di ribellione più forte che altrove. Questo è il contesto che oggi, a distanza ormai di quasi 40 anni, possiamo vedere con abbastanza chiarezza. Però allora, nel clima di elaborazione anche culturale del convegno del Parco dei Principi, 65, questa situazione del 68-69 viene quasi vista come la conseguenza di quello che era stato previsto. Ecco, dice, una serie di operatori politico-culturali di varia natura e di vario tipo, ecco che anche in Italia comincia una guerra rivoluzionaria a direzione comunista per sostituire alla democrazia italiana un regime filosovietico. Ci possiamo dire che non c'era nulla di tutto ciò, però non si può escludere che una serie di settori, i politici più conservatori, settori dei servizi segreti, marginalmente anche settori militari, fossero convinti di un pericolo di questo genere. Anche perché siamo in una fase nella quale, anni 70, vi è di nuovo una situazione di grande turbamento a livello generale. Tenete presente le date. Nel 73 il colpo di Stato in Cile. In Cile una coalizione democratica, inizialmente per Allende, votò in Parlamento, votò anche la Democrazia Cristiana Cilena, che poi appoggiò il colpo di Stato. E sembrava l'indice del pericolo che movimenti nazionali critici nei confronti degli Stati Uniti e delle multinazionali americane, il colpo di Stato fu anche finanziato dalla Anaconda e dalla AT&T, su questo c'è una documentazione abbondantissima, però era visto come Cuba e poi il Cile e poi movimenti analoghi in Perù, in Brasile. Quindi da un lato questo è il contesto che coinvolge l'America Latina. Dall'altro c'è un altro conflitto arabo-israeliano, quello del 1973. Contemporaneamente nell'area mediterranea entrano in crisi le due dittature storiche di Spagna e di Portogallo. In Spagna cade il regime di Franco, che è un regime molto conservatore, e proprio quasi si dissolve per insufficienza interna. La società spagnola matura anche sotto il periodo di Franco. Oggi la Spagna è diventato un paese dove la Chiesa ha meno influenza che in Italia, per dire. Quindi anche lì un fattore di dura presenza conservatrice si traduce in una carica più ribelle. Comunque in Spagna la transizione è guidata addirittura dal segretario della Falange, Suarez, quindi è una transizione all'interno di un sistema. Il franchismo si trasforma in una democrazia rappresentativa senza grandi scosse, ma comunque è un regime sicuramente anticomunista che viene sostituito da un regime nel quale il partito comunista è debole ma è legittimato. E la cosa più sorprendente è quella che accade in Portogallo, dove il regime salazariano, Salazar è morto, si è sostituto Caetano, viene rovesciato da ufficiali della guerra coloniale, che erano molto simili ai colonnelli della guerra rivoluzionaria di modello francese, che avevano cominciato a imparare che la repressione non è sufficiente, infatti non riescono a vincere né in Angola né in Mozambico, dove combattono duramente, ma che la prospettiva è di accompagnare una solida direzione politica con l'acquisizione del consenso. E allora lo applicano anche in Portogallo, prendono il potere e cercano il consenso in Portogallo. Questo è visto, però c'era qualcuno di questi ufficiali come Gonçalves erano vicini al Partito Comunista Portoghese, ma la gran parte non lo era. Il più di loro si avvicinarono poi al Partito Socialista Socialdemocratico tradizionale di Mario Suarez. Però allora in Francia e in Spagna una dittatura certamente anticomunista viene rovesciata e il Partito Comunista torna a operare nella legalità. In Portogallo addirittura la dittatura anticomunista viene rovesciata da ufficiali che si oppongono su posizioni progressiste, anche se non comuniste. Questo dà un quadro nel quale sembra che il comunismo stia dilagando ovunque. Se abbiamo questo quadro completo, allora si può capire cosa può accadere in Italia. La sensazione è che quello che era un normale movimento diffuso, di spostamento a sinistra della società italiana con le elezioni regionali prima col voto sul divorzio del 1974, poi con le elezioni regionali del 75 e infine con le elezioni politiche del 76, in questo contesto generale che appunto va dal Cile col colpo di Stato al Vietnam, dove nel 75 la guerriglia vince e i guerriglieri, in questo caso sì comunisti, entrano a Saigon, questo forma una situazione complessiva nella quale alcuni settori politici e soprattutto alcuni settori dei servizi ritengono che l'Italia corre il pericolo di un passaggio di campo, che cioè i comunisti, se non vengono frenati come in Cile, va a finire che vincono ovunque, dal Portogallo a Saigon, se non li fermiamo in tempo, anche l'Italia corre questo rischio. Ecco, io credo che la cosiddetta strategia della tensione e gli anni di piombo vadano collocati in questo contesto, nel formarsi di una cultura della guerra rivoluzionaria nella quale alcuni soggetti, insisto in particolare sul ruolo dei servizi segreti, i quali, teniamo conto che avevano appoggiato il centrodestra, non vogliono, non c'è pericolo di golpe in Italia, non si vuole rovesciare la democrazia italiana, però si vuole favorire una soluzione politica che mantenga l'Italia nell'ambito dell'Alleanza Atlantica e che non le faccia correre il pericolo di una presenza comunista al governo. Questo quadro può spiegare quasi, non dico tutto perché non c'è nessuna spiegazione sociologica o politologica che possa spiegare tutto, ma può spiegare quasi tutto quello che avviene tra Piazza Fontana e l'inizio degli anni Ottanta, quando vi è la svolta col sequestro del generale Dogere e finisce quella che è la lotta armata di sinistra. Io mi fermerei qui, vi ho dato una serie di spunti direi e anche qualche indicazione di tipo nuovo rispetto alle caratteristiche della guerra fredda, rispetto alle modalità della competizione tra mondo libero e comunismo, e adesso abbiamo forse una mezz'oretta di vostri interventi. Mi spiace di aver dovuto ridurre, ma proprio questa è una cosa nella quale non potevo fare a meno di andare, e semmai potremo avere qualche altra occasione di incontro. Abbiamo mezz'ora per i vostri interventi, esatto, più o meno. Dunque, innanzitutto grazie mille perché è stata davvero una relazione, credo, interessantissima per tutti. Iniziamo subito con le domande, anche perché tempo ne abbiamo abbastanza, insomma cerchiamo di sfruttarlo al massimo. professore, senta, lei ha fatto un quadro appunto globale rispetto alla solita, diciamo, tradizionale logica bipolare di cui si parla con me. La mia domanda è questa, ed è scaturisce dall'episodio di ieri a Milano, quello del questo tentativo di esplosione davanti a una caserma da parte. Quello di oggi, di ieri. Sì, di ieri. E, cioè, quanto contava allora, secondo lei, se c'entrava nel contesto nazionale, il terrorismo internazionale? E soprattutto, ci può essere un filo conduttore? Cioè, a me l'episodio di ieri è ricordato quello di Feltrinelli, anche se chiaramente sono due contesti, due persone, due situazioni diverse, però qualcosa di in qualche modo più amatoriale. Guardi, sì, risposto rapidamente. Sì. La lotta armata in Italia, io uso lotta armata e partito armato per definire quello che viene di solito detto terrorismo di sinistra. Moro, che poi ne fu vittima, l'aveva definito partito armato, mettendone in luce la valenza politica. La capì forse meglio di altri, ma gli incolse, ma questo è un altro discorso. Allora, fu un fenomeno prevalentemente italiano. Ormai a tanti anni di distanza non abbiamo nessuna prova che vi fosse una forte influenza esterna, sia a destra che a sinistra, l'auto armata di sinistra e le iniziative che invece vengono collocate a destra sono tutti fenomeni a matrice. Certamente vi fu un interesse per quel che accadeva in Italia. La CIA e molto anche i servizi segreti francesi tentarono la famosa storia di Perion, della scuola di Segnoni, ma c'è questo libro, se qualcuno vuol leggere poi trova tutte le risposte alla sua domanda. Quindi fenomeno prevalentemente italiano, nessuno andò in campi di addestramento in Cecoslovacchia, c'erano omonimi, a un certo punto andarono due per uno, si chiamava Franceschini, uno si chiamava Curcio, ma era una pura omonimia. Un minimo di addestramento vi fu di alcuni militanti di destra che poi organizzarono i NAR, quelli di Fioravanti, che fecero degli addestramenti con i falangisti libanesi. I servizi israeliani erano molto interessati ovviamente a quello che accadeva in Italia e presero anche qualche contatto con le BR offrendo scambi di informazioni. Le stesse BR ottennero rifornimenti di armi dai palestinesi, questo è assolutamente sicuro ed è il massimo che si possa dire. Quanto all'attentato di ieri mi sembra è troppo presto, a me sembra un caso, sono del parere della procura di Milano che dice che sembra un caso assolutamente isolato, anche il sindaco, un caso isolato di una persona che viveva in uno stato di profonda frustrazione e che cioè, non vedo altro. Non c'è nessuna continuità. Poi invece c'è un altro problema di guerra asimmetrica, è il problema evidenziato dall'11 settembre, qui certamente l'Occidente deve fronteggiare una guerra asimmetrica con un variegato mondo islamico, ma questo richiede una riflessione molto particolare. Negli ambienti degli anni 70 la presenza straniera è minima, qualche rifornimento d'armi, sì, poi alcuni, anzi, alle BR diedero anche un paio di bazooka abbastanza moderni che Pesci non sapeva usare, quindi non fu di grande utilità, né per gli uni né per gli altri. A proposito di una assimetrica, visto che è molto legata, potremmo vedere una continuità nel disastro nucleare di Chernobyl? Nel disastro nucleare di Chernobyl? No, dell'11 settembre. Chernobyl? Sì, Chernobyl è un disastro. Sì. Nucleare. Le nazioni. No, io non vedo nessuna relazione. Quale potrebbe essere la relazione? Lì fu il cattivo funzionamento di un impianto. Ma date le varie contraddizioni che sono state all'interno della scoperta, pensa che sia stata funzionare l'impianto. Io non ho mai letto niente, non so, è la prima volta. L'11 settembre, questo richiede un lungo e dettagliato discorso che andrebbe molto al di là. Certamente l'11 settembre può essere visto come una forma tipica di guerra asimmetrica, ma sull'11 settembre ormai c'è una letteratura sterminata e insomma bisognerebbe avere molto tempo per parlarne. Comunque sì, è una forma di guerra asimmetrica. Come sia stata condotta, quale sia stato il ruolo di Al-Qaeda, quale sia stato il ruolo dei servizi americani e israeliani, vi è molta... Ci sono molti problemi attorno a questo. Chernobyl no, ma l'11 settembre merita una riflessione approfondita, secondo me. Ancora due cose di breve. Gli anni 70, il sindacato, va bene, noi siamo deboli sotto tutti gli aspetti, secondo il mio nome. Negli anni 70 comunque sono stati gli anni... No, erano deboli prima. No, io sostenevo che negli anni 60... il sindacato in Italia era particolarmente debole e questo consentì alle direzioni aziendali di condurre una politica molto risoluta, e allora questo elemento di debolezza diventa un elemento di forza perché la ribellione diffusa alle condizioni di lavoro rafforzano moltissimo il sindacato. Negli anni 70 il sindacato in Italia era fortissimo, tanto che si parlava di pansindacalismo ed era una risposta di rivendicazioni alle debolezze del decennio precedente. Ho detto che era debole prima, poi divenne molto forte e quindi venne visto come un pericolo da chi riteneva che l'Italia potesse scivolare fuori dall'alleanza atlantica per orientarsi verso il blocco orientale. Ripeto, questo pericolo non c'era, ma la forza del movimento sindacale, che non uscì mai dai suoi limiti di movimento sindacale rivendicativo, anche se con obiettivi in qualche caso molto avanzati, venne vista come un aspetto di questo pericolo. Io penso naturalmente che questo pericolo non c'era, però la forza del movimento sindacale venne vista come un elemento di questo rischio globale. Prego. La presenza dei comunisti in Europa, in Italia, sì. Il Senato, siccome io la vedo come una contraddizione, non so se lei riesce a illuminare. No, io ho detto che questa possibilità di una presenza dei comunisti al governo era vista come un pericolo dai settori politici, da settori marginali dell'esercito, presenza molto forte nei servizi, che ritenevano che questo fosse un pericolo. Io a quell'epoca sostenevo che non era un pericolo e che anzi la presenza comunista al governo forse avrebbe migliorato la situazione italiana. Ma dicevo, quello che accadde negli anni 70 deriva dalla convinzione diffusa che ci fosse questo pericolo. Grazie. Prego. Sì, io volevo chiederle una cosa. Dunque, la ricostruzione dell'anticomunismo come modello ideologico per tutta una serie di svolte, io lo capisco e lo condivido, mi scusi, non è che ha bisogno della mia condivisione. Ma mi chiedo anche quanto all'interno, soprattutto dell'Italia, l'anticomunismo così posto in termini internazionali non diventi anche una copertura per la lotta, per la salvaguardia di interessi, certo, già costituiti, che sotto l'ombrello dell'anticomunismo in realtà reagiscono in modo forte. Sì. Ecco, mi sembra che ci sia questo. Sì, è un'opinione che si può condividere. Certamente appartiene soprattutto alla prima fase, della quale specchio il convegno del 61, del quale lì avete alcune relazioni. Cioè, è una situazione per la quale bastava dare garanzie di anticomunismo, che anche se si era molto conservatori o anche un po' reazionari, andava bene lo stesso, e quindi all'insegna dell'anticomunismo si coagularono interessi e forze diverse, anche forze che volevano essere riformatrici ma che non apprezzavano e combattevano l'autoritarismo del partito comunista in Italia e la struttura autoritaria dello Stato sovietico. Quindi c'erano anche componenti riformiste, quelle che poi l'amministrazione Kennedy e anche i servizi italiani del tempo cercando di aiutare. Però vi erano anche posizioni di interessi costituiti molto conservatori e molto reazionari, per i quali l'anticomunismo era una bella bandiera sotto la quale combattere. Io avevo una domanda. All'interno del discorso che ha fatto lei, e prima ha detto che il fenomeno terrorista in Germania era praticamente inesistente, ma da quel poco che so io, alla Rotary Fraktion tedesca guarda sia autonomia operaia per un verso che forse anche le Brigate Rosse. Allora, come si può entrare, se entra nel discorso italiano? Sì, allora... avrete forse visto ormai sulla Rotary Fraktion, ci sono molti libri, anche qui sono stato relatore di una tesi di laurea molto accurata, ci sono molti libri, ci sono persino dei film. Allora, la Rotary Fraktion fu costituita fondamentalmente da un gruppo di intellettuali di sinistra che non erano legati all'Unione Sovietica, che forse furono in qualche modo infiltrati dalla Stasi, cioè dal servizio segreto della DDR, e che avevano scarsissimi legami con la classe operaia tedesca. Questo era il fenomeno della Rotary Fraktion, che durò un periodo di un paio d'anni. Furono un modello, sì, per le Brigate Rosse, questo è vero, furono un modello, tanto che vi furono parecchie analogie tra il sequestro di un industriale, il responsabile della Confindustria tedesca, che venne rapito dalla Rotary Fraktion nell'ottobre del 77. Chiesero di trattare, non furono le trattative, non riuscirono, venne ucciso. Fu un modello sul quale le Brigate Rosse e la loro colonna romana costruirono la strategia del sequestro Moro. Quindi questa influenza vi fu certamente. La differenza sta nel fatto che la lotta armata in Italia è andata avanti per più di un decennio, la lotta armata, e aveva anche legami limitati, ma esistenti in ambito operaio. E le Brigate Rosse avevano fiancheggiatori in molte fabbriche del nord. Questo è poi nel collettivo dei Bolsci, negli ospedali romani, in qualche situazione marginale a Napoli. La Rotary Fraktion invece non ebbe mai il benché minimo legame diffuso, era un gruppo di intellettuali liquidati i quali il movimento si esaurì. Che ore sono? Scusate. Meno 20. Meno 20. 12 minuti. Ah, allora abbiamo ancora sì, tempo. Sì, sì, abbiamo ancora un quarto d'ora sì, a disposizione. Senta, io sono trentina di Trento. Volevo sapere, secondo lei, perché una città tranquilla, democristiana come Trento, a un certo punto mi sembra di aver capito che il nucleo ideologico delle Brigate Rosse sì. ha messo le sue basi? È solo perché c'era l'università di sociologia? Sì. Oppure perché... Sì, ho anche per un paio d'anni ho anche insegnato a Trento in quel periodo. Dunque, Trento era una città democristiana e ci fu un'idea per quanto riguarda il livello culturale di Beniamino Andreatta, che era stato ministro del tesoro del gruppo bolognese del Mulino, era il maestro di Prodi, tanto per collocarlo. E Andreatta pensava che nella società italiana in evoluzione bisognava costruire delle università di tipo nuovo che ponessero i problemi in termini sociologici. La cultura italiana era prevalentemente storicistica e quindi aveva la variante crociana e la variante marxista, entrambe storiciste, oppure c'era una filosofia dell'attualismo gentiliano, o storia o filosofia, erano le tendenze culturali prevalenti. Andreatta pensava che invece la nuova società aveva bisogno di una società italiana in trasformazione, i convegni democristiani di San Pellegrino, lo stesso gruppo del Mulino, aveva bisogno di strutture universitarie nuove da impiantare, nuove, perché le vecchie avrebbero seguito il vecchio indirizzo storicistico e filosofico. Pensò a quella di Trento e pensò a quella della Calabria a Cosenza. In quella di Trento fu molto aiutato dal leader locale, il grande patron della Democrazia Cristiana di Trento era Flaminio Piccoli. Poi c'era Kessler, il cui figlio era stato uno sforzo tutore, è stato poi parlamentare dell'Ulivo, che era il leader locale della Sinistra Democristiana, e aiutò molto Andreatta in questo progetto. Quindi era una università nuova che era stata concepita come moderna facoltà di sociologia. Poi nel clima del 67 accadde un fenomeno che non era stato assolutamente previsto, che come poi le Brigate Rosse prendevano il modello della Rotarmée Fraction, una centinaia, migliaia di studenti di vari posti d'Italia pensarono che Trento potesse diventare la Nanterre italiana, la Nanterre dove era nato il maggio 68 in Francia. E quindi affluirono, io l'ho vissuto quel periodo andandoci, e ricordo ancora lo stupore di quella città così ordinata, dove il leader culturale era l'arcivescovo di Bressanone, era l'autorità suprema. Un buon sovrano era Francesco Giuseppe. Mussolini era un pericoloso socialista, questo era il quadro della cultura trentina, e arrivano le ragazze col basco, con la minigonna, con gli stivali, fu un disorientamento clamoroso, ma nessuno si aspettava che accadesse questo fenomeno, che invece di essere frequentata da ordinati strumenti, da ordinati studenti dell'area trentina, che per lo più andavano a Innsbruck, e a Innsbruck i più bravi andavano, dovevano essere i nuovi quadri dell'Italia in trasformazione, ma sempre a regia democristiana, e si vedono arrivare questa migliaia di studenti, fu un fenomeno così imprevisto. Gli studenti arrivavano, si iscrivevano, e lì nacque la formazione. Il leader teorico era lo Stagno, un ragazzo brillantissimo che veniva dal PSIUP, e si creò questo fenomeno. Andreatta e Kessler avevano pensato di farlo in luoghi di sicura influenza democristiana, Trento per quello che lei ha detto, in Calabria perché c'era il ministro, sarebbe poi diventato ministro della pubblica istruzione, Riccardo Misasi, che era uno dei leader della sinistra di base, uno dei modernizzatori della DC di allora, è un'area a larga influenza moderata. Quindi invece le cose, almeno a Trento, andarono diversamente. Arrivarono studenti da tutta Italia con queste caratteristiche. Poi nel corso delle trattative arrivò Alberoni, che voleva fare una università mitteleuropea, ma d'accordo col movimento studentesco, ma le Brigate Rosse non nacquero lì come mai. Lì c'era Curcio, che però aveva un ruolo assolutamente secondario. Le Brigate Rosse nascono poi a Milano, quando sia Curcio che Rostagno che con le BR non c'entra niente, si trasferirono poi a Milano. Quindi è una leggenda che le Brigate Rosse nacquero a Trento. Le Brigate Rosse nacquero a Trento quando Curcio e alcuni altri studenti di Trento si trasferiscono a Milano e fondano fine del 69 il collettivo politico metropolitano, che raccoglie anche elementi delle fabbriche milanesi. Quindi non nascono a Trento le Brigate Rosse. A Trento vi furono una serie di episodi locali con delle bombe anche, ma queste appartengono a un altro pezzetto di storia non molto significativo. È sufficiente? C'era lui. Non so se siete tutti bloccati dall'esaustiva spiegazione del professore, o siete magari intimiditi, o non so. Soprattutto come settimana scorsa mi rivolgo. Io facevo la maestra elementare al tempo, e cioè ho notato proprio nella mia ricerca nel 69 e nel 68 di questo, diciamo, questo spazio di riflessione politica che a Milano allora era molto diffuso. Però c'era tutto un movimento, diciamo, di base cattolico molto forte, dei dopo scuola, e il nostro riferimento era un po' Don Milani, più che il Partito Comunista. Mi ricordo che andai a frequentare la sezione Stalingrado, nome glorioso adesso, del Partito Comunista e trovai un gruppo di ragazzi simpatici, così, che però non facevano assolutamente attività politica se non quella di vendere l'unità mattina. E quindi io me ne andai e preferì trovarmi nei gruppi cattolici che, e mi ricordo che lì feci la maestrina raccontando le cose della Cina che avevo, non so, annusato qua e là. E volevo dire, all'inizio c'è proprio una frattura fra il Partito Comunista e il Movimento. Certo. Vorrei, lei ha già sottolineato questa cosa. Beh, però mi piacerebbe che magari ancora un pochino e magari, non so se poi sono state le elezioni che hanno portato all'inizio degli anni 70 a questo momento e come mai in fondo questa incomprensione sia per Piazza Fontana sia per il movimento studentesco, il Partito Comunista se ne è sempre trascinato, o no? Sì. Io ho trascurato nel quadro che ho fatto quello che accadeva nel frattempo nel mondo cattolico, certamente, con varie vicende. La più nota è il fatto che Giovanni XXIII indice il concilio, e questo è un fatto molto importante, mentre contemporaneamente vi è una presenza. Il mondo cattolico è in fermento in generale, e anche nell'America Latina, dove il cattolicesimo ha connotazioni molto particolari, si sviluppa la teologia della liberazione e ci sono anche, oltre alla predicazione di Enron Camera, ci sono anche chi dice che per liberarsi dallo sfruttamento è anche lecita la lotta armata. Tra l'altro le BR saranno infiltrate dal famoso frate Mitra, che era un infiltrato dei servizi che però aveva la fama di guerrigliero latinoamericano. Quindi il mondo cattolico è in fermento, il fenomeno più epocale è quello del concilio, e poi ci sono tante vicende minori, tanto che nacque l'espressione, mi pare che sia di Giorgio Bocca, che in Italia si parla di cattocomunismo, si sostiene che ci sono dei cattolici più comunisti dei comunisti. Nelle fabbriche, la FIM, la Federazione Metalmeccanica della CISL, guidata da Carniti, ha talvolta delle posizioni più avanzate della CGIL. Dopo essere nata all'origine quasi come sindacato padronale, quasi come forma di riscatto, diventa più avanzata del sindacato di tradizione comunista. E alcuni brigatisti, non so, Vittorio Enzo Alfieri, fondatore della Brigata Lassia, era anche iscritto alla CISL e parlava nelle assemblee per la CISL. Quindi io di questo ho parlato poco perché volevo dare il quadro generale, il tema era la guerra, però vi è una forte presenza cattolica anche nelle Brigate Rosse e anche nei vari gruppi che hanno questa derivazione, tanto che viene coniato il termine cattocomunismo. Questo dal punto di vista dei teorici della guerra rivoluzionaria, che è quello dal quale sono partito, è un elemento in più per temere che in Italia possano accadere cose reputate un pericolo. Se anche i cattolici nel paese del Papa, nel paese della Chiesa, diventano fiancheggiatori della ribellione armata, qui cosa, dove andiamo a finire? Ecco, questo aspetto io l'ho messo da parte per fare un quadro globale, appunto, che va dal Cile all'Indonesia. Il suo forte giusto è accaduto esattamente quello che dice lei, che talvolta delle persone interessate alla politica trovavano più fervore politico in questi movimenti che il Partito Comunista osteggiava che non nelle sezioni comuniste, dove dei bravi ragazzi, come lei ha detto, si limitavano a diffondere l'unità senza fare una riflessione critica o una riflessione più radicale. Così. Quali sono le condizioni che hanno portato all'assassinio di Moro e allo scioglimento poi in seguito anche delle Brigate Rosse? Facciamo la fermo io, no, facciamo così. siccome il laboratorio si chiama La strategia della tensione, noi ci impegniamo per l'anno prossimo o quello successivo a fare un laboratorio sugli anni di piombo, sulle Brigate Rosse e tutto il resto, perché sono un capitolo a parte e il professore dovrebbe parlare, credo, per due ore solo del caso Moro. Dirò solo che le Brigate Rosse si erano convinte che un'operazione grandiosa, quale mai nessun movimento guerrigliero aveva realizzato al mondo, cioè rapire il candidato alla presidenza della Repubblica in uno stato industriale avanzato, che facendo questa grande impresa, che ha avuto effettivamente un'enorme risonanza, le Brigate Rosse teorizzavano, a proposito del Partito Comunista, che mentre il gruppo dirigente era abituato alla routine, si era socialdemocratizzato, era, come loro dicevano, diventato revisionista, invece il Partito Comunista comprendeva una base operaia ancora disponibile per la rivoluzione. E allora, se noi facciamo un gesto grandioso e sfidiamo la Democrazia Cristiana sequestrandone l'uomo più importante, queste masse comuniste capiranno che i veri rappresentanti del proletariato, le vere guide possibili della rivoluzione, siamo noi Brigate Rosse e non i dirigenti che loro chiamavano berlingueriani. Questo fu un errore clamoroso. Devo aggiungere, ma questa prima lettura, che questa operazione, secondo me, fu resa possibile. Le Brigate Rosse erano Brigate Rosse, non erano infiltrati di servizio, erano, per usare il termine di Rossana Rossanda, compagni che sbagliano. Però l'operazione Moro fu anche possibile perché in un periodo precedente, quando le Brigate Rosse erano molto in difficoltà, ci fu una certa tolleranza perché erano lo spauracchio agitando il quale si potevano consolidare, come ha detto la signora prima, tutti gli interessi conservatori. Il sequestro a Moro fu il punto più alto della lotta armata in Italia. Poi, gradatamente, gli assessori, e a un certo punto, quando rapirono un generale americano con un'operazione brillante ma un po' avventata, fu l'inizio della fine, perché allora gli americani dissero ai servizi italiani di non traccheggiare più, di liquidare definitivamente le BR, cosa che avvenne puntualmente e gli episodi successivi furono marginali. Però anche dopo il sequestro Moro, le BR rimasero molto attive per un quadriennio, appunto fino al 1982, e alcune iniziative isolate andarono avanti fino all'omicidio di Ruffilli, che era il consigliere di De Mita per le riforme istituzionali, ancora nell'88, cioè 10 anni dopo Moro. La storia successiva d'Antona Biagi è un'altra storia. Mi limito a dire questo e adesso ancora vi ringrazio. Esatto, se la tua domanda è rapidissima, perché poi sì, questa volta purtroppo è ora. No, vai. Faccia. No, devo sapere se e quale ruolo ha avuto la P2 nella strategia della tensione. Come la P2? Sì. Questo è un altro libro. Io ho scritto un libro su la P2 che si chiama... la P2 non ebbe un ruolo importante per delineare che cosa bisognava fare in Italia. Il piano delineante è stato evocato anche nei dibattiti di questi giorni. C'è chi sostiene che il piano di rinascita che Gelli aveva elaborato gestendo la P2 sta forse trovando qualche applicazione 20 anni dopo. Io dico questo. Quindi ebbe un ruolo importante nel trasformare le preoccupazioni in un possibile programma politico, ma in realtà era una camera di compensazione di affari, era molto più questo che qualsiasi altra cosa. Non meditò alcun colpo di Stato né pensava di sovvertire le istituzioni democratiche. Aveva fatto un progetto di svolta, diciamo, con più forza con l'esecutivo, con più controllo della magistratura, con più controllo della televisione, un po' le cose di questi giorni, ma non più di questo. Bene. Dunque, possiamo chiedere una cosa? Lei ha detto che non ci sono stati tentativi di colpi di sì. Stato, ma allora il nostro borghese... No, il colpo borghese era una sorta di colpo d'avvertimento, ma su ognuna di queste cose dovrei parlare per ore. Furono una cinquantina di militanti, occuparono la sede del Ministero degli Interni, portarono via un paio di mitra per ricordo, doveva scattare una correzione per spostare la Democrazia Cristiana, non c'era nessuna idea di colpo di Stato. E poi non è con 500 guardie forestali portate dall'Aquila che si occupa Roma. Non era un colpo di Stato. Dunque, prima vi chiedo un secondo ancora di attenzione prima di smobilitare. Innanzitutto ringraziamo davvero Giorgio Galli per essere stato con noi stamattina. Io faccio un appunto che ho fatto anche settimana scorsa, ma che ci teniamo davvero a ripetere ogni volta. Noi stiamo cercando di costruire man mano nel corso delle lezioni un quadro sempre più complesso, sempre più elaborato. Speriamo che sia chiaro, che vi sia utile, che queste lezioni, e non me ne vogliano, ripeto, come sempre, come diceva settimana scorsa, i diversamente giovani, soprattutto per gli studenti più, fra virgolette, giovani. Per cui mi raccomando, se non vi risulta chiaro, se vi sembra troppo confuso, qualsiasi problema ci sia rispetto ai contenuti delle lezioni, fatecelo sapere, intervenite, perché è il nostro interesse principale. Giorgio Galli l'abbiamo ringraziato. Adesso gli iscritti, se per favore si fermano, così facciamo le cose burocratiche e vi consegniamo la dispensa per la prossima settimana. No, io per email in questo momento non ce l'ho. Se faccia dare il telefono, allora nel mio telefono. Professore, grazie mille per voi. Grazie a voi. Grazie. Professore, mi ha detto. Numero di telefono. Mandami la mail. Sentito. Thank you. Ciao. una sola cosa da confermo che tre persone e io compresa sono stata aggiunta la seconda volta. Ho in ufficio la lista, dovete passare, posso benissimo tutti gli altri passare. Posso magari andare a mangiare qualcosa, se no domani mattina. No, sono anche gli amici. Ci c'è la lista, lì non sappiamo. Minerare il recepimento. Guardi, domani a me, se la vera non c'è, ci sono io e il mio collega, per cui dai, c'è senso, anche prima se avete, diciamo che la vera 9 e mezza, io dovrei essere fino a mezzo per mezzo. Però un senso che funge. D'accordo, io vorrei qua, sono di carattere, ma io non voglio fare ogni volta all'inizio della lezione prima non tanto da, ripeto che lo spiegherà meglio lui non tanto solo da un punto di vista degli eventi una serie di situazioni che vanno dal tecnico di 5 minuti sono molto introduttive essendo un laboratorio che è fatto quasi autogestito perché felicemente questo dovremmo farlo noi ma siccome siamo non stai dietro questo bollino capo quindi ci sarà un mio collega magari parliamo Ci sono ancora giovani, non è andata bene. L'unica cosa, secondo me, bisognerebbe cercare bisogna censurare i versi, no, di farsi credere male.